le strade di notte mi sembrano più grandi e anche un poco più tristi. È perché non c'è in giro nessuno, anche i miei pensieri di notte mi sembrano più grandi e forse un poco più tristi. E perché non c'è in giro nessuno. Voglio correre a casa, voglio correre da te e dirti che ti amo, che ho bisogno di te. Speriamo che tu non dorma già. Mi spiacerebbe svegliarti. Perché non c'è in giro nessuno. Voglio correre a casa, voglio correre da te e dirti che ti amo, che ho bisogno di te. Speriamo che tu non dorma già. Mi spiacerebbe svegliarti.